Oh, che fa che fai? Uno strappo alla regola, ma facci piano dai. Forme deformi, contorte distorte, calmo di giorno, colmo la notte. Andando oltre, svuoto la botte, mi riempio con il credo del chi cazzo se ne fotte. Ok man, notte brava è qui con me. Vetro scotch, DJ Zava, per la city e son le tre. Tutti fatti come pochi, ed idioti quasi ignoti. Per la strada facciam botte, d'artificio come i fuochi. Ti bruci se li tocchi, ti impressioni e poi sbocchi. Quindi è meglio che non giochi con i matti come noi. Avvisato, fra, dopo tu fai come vuoi. Salvato a metà, l'altra va per cazzi suoi. Non esiste concorrenza, noi del freestyle si ha l'essenza. Tipo tossici, spasmodici, in piena dipendenza. Nella vena, droga ra, bocca piena, fuma scar. Per le vie di sta città, coi miei fra è così che va. Puri pop, zero stop, costi bro, like a small. Tutti fusi, belli e lusi, sembra d'essere West Coast. Io il più fuso tra sti fusi, come il cheese che sta in un top. Sempre i primi, i nostri stili, vanno avanti, turbo boss. Siamo cugini, io e Scotch, con il peli, siamo fratelli. DJ Zava sta sul beat e noi sul mic a farmacelli. In sostanza, fratellanza, non esiste differenza. Il più elevato fra i livelli, ok. E se tu non è ferrato, beh, cazzi tuoi, b-boy malato. Yo, non lo faccio a te lo spelling. Orme deformi, contorte distorte, calmo di giorno, colmo la notte. Andando oltre, svuoto la botte, mi riempio con il credo del chi cazzo se ne fotte. Sono le 4, assuefatto come te, fatto doppio alla ricerca di Jack Daniel. Consumo più alcolici che energia Enel, ma va bene, o quando si beve, chi mi tiene sull'asfalto neve, tequila e gin, fuori meno 7, mi sui sogni rigidi di jeans. È solo lunedì, ma l'uomo del parchetto ha detto sì, raggiungimi e son già lì, ma è meglio che ne aggiungi qui. Ho un po', nello spoggio sono un asso, te la taglio, te la piazzo, te la smazzo. Non mi sa che tu non ci capisci un cazzo, in effetti sei fatto di neve, infatti sei un pupazzo. Tetto fatto accontentato, stato alcolico alterato, un po' più calibrato. Ora sulle labbra brucia, ganja del marugia di fiducia, ciuccia sta cannuccia qua, guarda come luccica, la lingua mi si appiccica al palato. Dai lecca tu perché sono prosciugato. Occhi rossi, variegati, cangianti, tocchi grossi, passate passanti. Gesti nostri criticati dai santi, ma senza questi riusciresti ad annoiarti. Ci ho provato ad essere serio, ma mi viene meglio clown. E la gente grida wow, un short come Santa Claus. Vado al palco, mischio Dennis Love and Brown, oh. Ed è così che animo le mie serate, ma finisce che poi l'anima la sfoco dentro un vaso. Orme deformi, contorte distorte, calmo di giorno, colmo la notte. Andando oltre, svuoto la botte, mi riempio con il credo del chi cazzo se ne fotte. Caso già finita, appena presa, già sparita, con un deca sotto il letto. Questo tipo asciuga come un affoletto, ma hanno detto vedi smesso con sto cazzo. Tutti fumi pure il gesso, dove è messo quel contatto con il tipo di Spinetta. Già il parchino che ci aspetta, fanno spino, non c'ho fretta. Con lo squillo sto arrivando, oh non ti fidare, tipo nuovo sembra strano. Ma hanno detto che in quest'ora canta come Albano. E mo ci parlo io, scendo dalla Clio, sguardo duro, minaccioso, passo poderoso, parlo da mafioso. Questo dice siciliano, no mia madre è pure intuona, poi mio padre è di Milano. Minchia, dopo un quarto d'ora che ci parlo, questo tipo sembra posto, solo il posto sembra rosco. Per il costo mi sono messo a posto con l'amico vostro. Se vuoi chiama tanto lo conosco, non fa niente, sai mi fido, io sorrido, lui mi guarda in viso. Dai mi zatto 120, fai la giunta pure saltano dei denti. Ok va bene, c'è l'intesa, poi mio frate cade nel tombino. La sua prima canna accesa, ma che sfiga. Il discorso poi si sposta verso i soldi, adesso fumo, chi lo paga, brutta storia. Io ho lasciato i soldi a casa, fammi il gancio, poi domani te li porto. Manco morto, lasciami le scarpe, pure il cellulare. Se non gira il tacco, vattene a cagare. Tipo parla bene, con chi cazzo stai parlando? Qui nessuno sta offendendo, questo parte con lo schiaffo. Io lo schivo, tu sei pazzo, bella frate. Sta arrivando una volante, forza fuga dal palchino. Ma per te, mi è finita la serata con la bomba nel tombino. Orme sul fango, sbarionante, butta giù l'applauso. Orme deformi, contorte, distorte, calmo di giorno, colmo la notte. Andando oltre, svuoto la botte, mi riempio con il credo del chi cazzo se ne fotte. Orme deformi, contorte, distorte, calmo di giorno, colmo la notte. Andando oltre, svuoto la botte, mi riempio con il credo del chi cazzo se ne fotte. Oh, io non c'entro un cazzo. Oh, vai tranquillo, Scotch. Oh, io non c'entro niente. Dai che ti ripiglio, madonna come sei fatto. Oh, male dov'è? L'ho perso. Ma che minchia ne so. E l'ultima volta che l'ho vista era il cesso del bar. Oh dai, oh, io me ne vado a casa che c'ho la biota. Oh ciao Cucci. Oh bella Cucci, ci vediamo.